in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani che oggi hanno aperture un po' diverse, anche se poi i temi sono più o meno magari appunto con pesi diversi, sono gli stessi e naturalmente in primo piano c'è lo sventato attentato sul treno di ieri di cui avete sentito parlare già ieri e poi nei GR, ai telegiornali. Cominciamo quindi dal Corriere della Sera che dedica appunto la fotonotizia a quelli che vengono definiti tre amici che hanno evitato la strage, il reportage di Stefano Montefiori, corrispondente da Parigi del Corriere della Sera. Il titolo principale però è dedicato a una sentenza della Corte di Cassazione che ha bocciato i conti delle regioni, partendo dal caso del Piemonte, che ora spiega Mario Sensini in questa analisi, sono a rischio anche le altre regioni. I fondi per pagare i fornitori, quindi sapete l'annosa questione che si sperava fosse vicina alla risoluzione del pagamento dei debiti che la pubblica amministrazione ha nei confronti delle imprese e che paga con tempi record in negativo naturalmente rispetto alla media europea, ecco, quel tema non è risolto perché la Corte di Cassazione ha appunto scoperto che questi fondi vengono usati poi per spendere per la spesa corrente delle regioni, i timori di un buco fino a 20 miliardi, e trovate il reportage poi a pagina 5 del Corriere della Sera. Vi segnalo però oggi la rubrica Padiglione Italia di Aldo Grasso, che è dedicata naturalmente come sempre sul filo dell'ironia, però forse in questo momento un po' di ironia verso questa quella che lui chiama la Brigata Calimera. Adesso leggendolo capirete perché, forse è il modo migliore per affrontare la questione di tutti quelli che hanno sostenuto Tsipras fino a quando sembrava il grande nemico delle istituzioni europee, adesso che invece ha fatto questo gesto che molti hanno definito da autentico statista, chiedendo elezioni anticipate per avere un mandato più forte per condurre il suo paese, adesso si sentono traditi. E allora appunto il titolo di Padiglione Italia, l'allegra brigata Calimera che Tsipras tradì, ve lo leggo. Dove è finita l'allegra brigata? Intendo la brigata Calimera, quel manipolo di irriducibili che da febbraio 2015 ha preso a frequentare Atene come ultimo baluardo della sinistra dura e pura. Prima per festeggiare il successo elettorale di Alexis Tsipras e poi la vittoria del referendum. L'allegra brigata Calimera, intendo i Fassina, i Vendola, le Spinelli, i Maltese, i Civati, la minoranza Dem, i fan di Siriza e Podemos e la sinistra di Popolo in viaggio studio ad Atene, Erasmus per fuori corso, per affermare che un'altra sinistra è non solo possibile ma può diventare forza di governo. Pochi giorni fa però Tsipras ha tradito la brigata Calimera, ha chiesto le elezioni anticipate, si è comportato da statista responsabile e non più da leader populista. Sconfessando l'esito del referendum, non si può vivere sempre in campagna elettorale, si è convinto che per andare avanti deve accettare le regole che vengono imposte non dai debitori ma dai creditori. L'allegra brigata oggi è triste. Il suo destino, se continuerà a prendere lucciole per lanterne, sarà sempre la sconfitta, la perenne stasi nell'illusione demagogica. Il modello Tsipras come antidoto al renzismo è svanito e con esso l'occasione per un'altra politica della sinistra italiana. Dal buongiorno Calimera alla buonasera Calispera, è questione di ore. E Aldo Grasso conclude con una citazione del poeta veneto Biagio Marin, in veneto, mi scuso perché per magari la lettura poco corretta, comunque i versi sono appunto in dialetto veneto: ogni illusion se senza luce quando fa sera. Passiamo alla prima pagina del Sole 24 Ore, che torna sui grandi temi economici e in particolare anticipa quello che sarà il tema del prossimo G20 che si terrà il 4 di settembre ad Ankara in Turchia, dove tra l'altro il governo è alle prese anche lì con una crisi, perché sappiamo che si va verso elezioni anticipate anche in Turchia, quindi un G20 che poi assumerà probabilmente anche altri significati. In ogni caso per ora è il dossier valute e la Cina i temi, sono il dossier valute e la Cina i temi dei grandi, che su cui rifletteranno i grandi. L'emergenza valutaria e la crisi di Pechino saranno i temi chiave del prossimo vertice di Ankara. L'analisi in questo caso, soprattutto per quanto riguarda tutto quello che è successo sul mercato delle valute con la svalutazione in particolare della valuta cinese delle ultime settimane, l'analisi di Alessandro Merli inizia a pagina 1, continua a pagina 3, non bastano più impegni generici, ma ci sono anche altre due analisi, una di Guido Rossi, quel buio che circonda le ragioni di Pechino, quindi un approfondimento su quello che sta succedendo in Cina, e poi invece per quanto riguarda la Grecia, l'analisi di Luca Ricolfi, la lezione della Grecia, l'Europa e noi. E poi vi segnalo, come ogni domenica sul Sole 24 Ore, la lettera al risparmiatore di Vittorio Carlini, che questa settimana si concentra su un titolo bancario, quello del Credito Valtellinese, che, scrive Carlini, scommette sulla ripresa più impieghi a PMI e famiglie. L'analisi di questo titolo, una pagina intera che, come sempre, come sapete, intende dare dei consigli a chi magari ha già il titolo in portafoglio o sta pensando di metterlo in portafoglio, la trovate poi a pagina 12. E sempre come un altro appuntamento fisso della domenica, quello con Bruno Forte, arcivescovo di Chieti Vasco, che riflette sulla fine delle vacanze. Per molti di noi stanno appunto finendo con la fine di agosto. Fiducia nel domani e poesia della fede. Trovate l'intervento, inizia a pagina in copertina, continua a pagina 10. La prima pagina della Repubblica è concentrata invece ancora sulla vicenda dei funerali di Vittorio Casamonica, il boss che appunto i cui funerali hanno suscitato tanto scandalo. Ira del Vaticano, uno scandalo coi funerali. Il riferimento è a un articolo apparso ieri sull'Osservatore Romano, che è il quotidiano cattolico per eccellenza, il quotidiano della Santa Sede, dove appunto si è un po', senza fare nomi, si è un po' sconfessata la posizione del parroco che ha celebrato quei funerali e poi ha ribadito il giorno dopo che lo avrebbe rifatto, perché appunto adesso quei funerali vengono definiti uno scandalo. Vi segnalo dalla prima pagina anche l'analisi di Bernardo Valli sull'attentato sventato sul treno Amsterdam-Parigi. In questo caso il titolo è Vivere con la paura dei lupi solitari, perché questo terrorista, che sappiamo era potenziale terrorista, che era noto ai servizi segreti francesi e anche belgi, può rientrare in questa categoria dei lupi solitari, cioè ragazzi in generale molto giovani che hanno avuto un addestramento e che paiono non aspettare altro che un'occasione per agire anche da soli, da qui il termine lupi solitari. E poi vi segnalo un'intervista a Yannis Varoufakis, che è un'intervista in realtà apparsa su Le Monde, che Repubblica ha tradotto, un'intervista di cui forse avremo tempo di leggere qualche domanda e risposta. Il titolo: da Tsipras una capitolazione, l'austerity ucciderà l'Unione Europea. Dichiarazioni non nuove per Varoufakis, ex ministro delle finanze, che si è dimesso, sapete, dopo l'accordo che Tsipras ha firmato con le istituzioni europee, e che adesso però è rimasto nel partito Siriza, ma è la voce più critica contro Tsipras e appunto l'attuale linea del governo greco. La Stampa titola sulla spesa pubblica, con un titolo un po' diverso però da quello del Corriere della Sera, che si concentrava sulla questione delle regioni. Qui ci sono alcune anticipazioni sulla legge di stabilità, quella che dovrà decidere come verranno spesi i soldi, come verrà usato il bilancio dello Stato nel prossimo anno. Quindi il titolo: sanità, sconti fiscali, ministeri, il piano dei 10 miliardi di tagli, di cui abbiamo parlato anche ieri, perché anche il Messaggero cercava di fare delle anticipazioni su questo documento che verrà presentato tra qualche settimana. Il Messaggero appunto si concentra invece sempre sui funerali di Casamonica, perché è pronta questa relazione del prefetto Gabrielli che dovrebbe evidenziare tutti gli errori che ci sono stati, magari non violazioni di legge, perché questo è poi il punto, che in realtà non sembra, a parte la questione dell'elicottero che ha sorvolato senza permessi il cielo della capitale, non ci sono state vere e proprie violazioni di legge, ma quelli che vengono definiti degli errori. E poi anche qui si fa accenno al mea culpa del Vaticano con questa questione del funerale scandalo. Naturalmente la fotonotizia è dedicata invece agli anticipi di ieri, perché hanno giocato le due squadre di Roma. La Lazio, lo sapete, ha vinto 2-1 mentre col Bologna, mentre la Roma col Verona ha pareggiato 1-1, e questo naturalmente viene messo in prima pagina sul Messaggero. L'Avvenire: migranti, muri inutili. Qui la questione è naturalmente quella della Macedonia, che sta cercando di ereggere di difendersi dalle ondate dei migranti che arrivano dalla Grecia con un vero e proprio muro in Macedonia. Però, scrive l'Avvenire, le barriere di confine non reggono, e intanto nel Mediterraneo, lo abbiamo sentito nelle cronache di ieri, continuano i salvataggi, migliaia di salvati sui barconi. C'è la fotonotizia dedicata però a un'inchiesta, a un reportage dell'Avvenire sui baby criminali, in particolare in America Latina, con queste carneficine, perché spesso questi baby criminali poi magari commettono dei delitti, ma poi soprattutto sono le vittime quando non riescono a compiere le missioni che vengono loro affidate. Escalation di violenza in America Latina, Lucia Capuzzi ci racconta questa storia sconvolgente a pagina 4. L'unità titola L'ira del Vaticano. Ecco, anziché concentrarsi anche qui, io sono sempre, negli ultimi tempi, sono molto critica con questi titoli dell'unità, perché sembrano sempre un po' spostare il problema. Forse non è tanto l'ira del Vaticano quello su cui ci si deve concentrare, ma appunto le reazioni, quella del prefetto Gabrielli o magari dello stesso PD. Comunque, questo è il titolo scelto dall'unità, che fa riferimento appunto all'articolo di ieri dell'Osservatore Romano. C'è anche però un accenno al fatto che il prefetto Gabrielli ha consegnato questa relazione al ministro degli interni Alfano, e viene riassunta il senso di questa relazione: una catena di gravi errori. Il Libero torna sulla questione del peso che secondo Libero il Papa vuole avere nello scenario politico italiano e non solo, e con questo titolo molto forte: l'internazionale peronista è col piano politico del Papa. Francesco si sta facendo costruire una sorta di leadership mondiale delle sinistre no global ecologiste. Il suo manifesto durante il viaggio in Sud America, lo ricorderete il mese scorso, peccati trasformati in questioni sociali. Il Giornale invece si concentra sull'attentato sventato ieri: terrorismo, allarme treni, i convogli sono insicuri e ora anche in Italia probabilmente avremo più controlli sui passeggeri e i bagagli, anche se in realtà i primi paesi che introdurranno queste misure sono la Francia e il Belgio. Ci fermiamo un attimo per le informazioni sul traffico, ci ritroviamo subito dopo. In primo piano. Ancora buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli. Ringrazio l'ascoltatore che mi ha segnalato la pronuncia corretta di Calimera e non Calimera. Torniamo un attimo alle prime pagine. La Gazzetta dello Sport naturalmente titola sulle partite di ieri, però per fortuna c'è anche un accenno ai mondiali di atletica, che sono sicuramente spettacolari. Tra l'altro oggi alle 3 c'è la finale dei 100 metri con Bolt che cerca di difendere il suo titolo, e poi c'è naturalmente alle pagine 30 e 31 la cronaca di ieri con anche la maratona, dove il nostro Pertile è arrivato quarto, quindi ha un soffio dal podio. Ma veniamo alle pagine interne. Sul Corriere della Sera, nel Corriere della Sera, una lunghissima intervista di Beppe Severgnini a Samantha Cristoforetti, l'astronauta. Ho trovato molto divertente in particolare la risposta su Gravity, su quando lei va al cinema e vede i film sui film di fantascienza. Mi chiedo sempre se appunto sono accurati o no. Ecco, secondo lei non sempre. E allora le chiede Beppe Severgnini: che rapporto c'è tra la realtà e il cinema, la musica e la narrativa sul volo spaziale? Aspetta, che si parla molto, insomma, ieri ho sentito il nuovo video degli One Direction girato in una delle basi della NASA. Insomma, lo spazio affascina tutti. Quindi chiede Severgnini: con che occhi guarda film come Interstellar o Gravity, lei che dallo spazio è appena tornata? E risponde Samantha Cristoforetti: non ho ancora visto Interstellar, ero tentata in aereo, ma ho preferito aspettare l'occasione di vederlo su uno schermo degno del film. Ho visto Gravity, certo, ho riso molto, temo di aver un po' disturbato nel cinema. È un film drammatico, non una commedia, ma non potevo trattenermi perché accadevano continuamente cose grottescamente irrealistiche, però la riproduzione della stazione spaziale è davvero molto fedele. Questa lunga intervista che trovate appunto di Beppe Severgnini a pagina 25 del Corriere della Sera. Ma torniamo un attimo ai temi economici. Su Sole 24 Ore c'è un approfondimento anche sulle pensioni, un altro tema che riguarda tantissime persone, perché ci sono ancora delle riforme che sono in cantiere. E allora il Marco Rogari ci spiega: pensione in anticipo con penalità e prestito, c'è un piano flessibilità nella manovra che appunto stiamo tutti aspettando che prenda forma, l'ipotesi di un mix per integrare la riduzione annua del 3% dell'assegno. A settembre appunto, partendo dalla proposta di Tito Boeri, presidente dell'INPS, il quadro della compatibilità con questa uscita possibile da 62 o 63 anni di età anagrafica, e trovate poi tutti i dettagli. E quello che gli anglosassoni chiamano un reality check, visto che abbiamo parlato dei funerali di Casa Monica, ma ecco che Roberto Galullo, così come ieri sul Sole 24 Ore ci raccontava il giro d'affari di questo clan, oggi si concentra più in generale sulle mafie a Roma, con i sequestri 2015 che sono arrivati a 720 milioni. Dalla bancarotta fraudolenta alla frode fiscale, ecco le ipotesi di reato contestate alla malavita. E invece dalla pagina di imprese, dalla copertina delle, di Imprese e Territori, vi segnalo un primo bilancio su Expo, perché abbiamo sentito che in agosto, un po' a sorpresa, ci sono stati moltissimi ingressi a Expo, siamo oltre metà perché Expo finirà alla fine di ottobre, e quindi il titolo del reportage di Sara Monaci: agosto lancia il rush finale di Expo, buone le previsioni per settembre-ottobre, a fine rassegna vicini ai 20 milioni di ingressi, che era un po' l'obiettivo. Ma passiamo ai supplementi culturali. Oggi insomma, forse abbiamo tutti un pochino più tempo per guardarli. Anche qui iniziamo dal nostro, quello del Sole 24 Ore, come sempre dalla rubrica Breviario di Gianfranco Ravasi, che oggi si intitola Sparlare. La citazione è del poeta francese Paul Valéry ed è questa: tutto quello che dici parla di te, soprattutto quando sparli di un altro. Rimproveriamo alla gente di parlare di sé, ma è l'argomento che sa trattare meglio. Altra citazione, questa di Anatole France nella sua Vie littéraire. Su questa stessa scia, scrive Ravasi, si muove il suo collega, il poeta Paul Valéry, con uno dei suoi cattivi pensieri che abbiamo sopra proposto. Noi non parliamo di noi stessi solo con le affermazioni personali, ma anche col semplice atto del parlare, che è una sorta di autoritratto. Ciascuno di noi ha i suoi tic verbali, le sue enfasi, le sue vanità, e l'effluvio delle parole ne è il veicolo. Ad esempio, ci sono persone che parlano finché trovano qualcosa da dire, ma già prima si sono rivelate per il poco che sanno. Valéry aggiunge una nota ulteriore: quando sparli con gusto di un altro, senza accorgerti, stai esorcizzando i tuoi stessi vizi che non vuoi vedere e non puoi confessare. Concludiamo allora col proposito del salmista biblico: vigilerò per non peccare con la mia lingua, metterò un morso alla mia bocca. Cercherò di ricordarmelo anch'io, che a volte appunto non riesco a mordere la mia lingua. Ma la copertina in realtà è dedicata a un libro in uscita il 29 agosto di Dario Fo, che si intitola Il controllore, che racconta un po', in cui il premio Nobel, l'attore, attore e autore, il titolo è dell'articolo Se l'attore non ricorda la battuta, perché infatti in questo libro ci sono tutti i trucchi del mestiere spiegati da Dario Fo, che ricorda anche la sua vita con Franca Rame, compagna di vita e anche di lavoro, e più di mezzo secolo di esperienze teatrali. La rubrica Memorandum invece del nostro direttore, nostro di Radio 24, del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano, si intitola Storia siciliana di Salvatore, precario da sempre, ed è appunto il ritratto di questo incontro fatto da Napoletano con Salvatore Marino a San Vito Lo Capo, un uomo di 59 anni che deve fare tre lavori per mantenere se stesso e la sua famiglia, e racconta appunto questa vita da eterno precario e come naturalmente auspicherebbe un modo di vivere, di guadagnare da vivere diverso. Un altro, insomma, scampolo d'Italia, un altro pezzo del puzzle Italia che Roberto Napoletano va componendo da tanti anni. Poi vi segnalo la seconda puntata, la prima era stata due settimane fa, delle lezioni di poesia di Franco Loi, il grande poeta che spiega ai lettori del Sole 24 Ore un po' i segreti della poesia, o comunque come vede lui la poesia. E quindi la seconda puntata di una serie di riflessioni sulla poesia e sullo scrivere poesia di Franco Loi, I suoni, guida per l'inconscio. E poi un ricordo di Ingrid Bergman a 100 anni dalla nascita, era nata infatti il 29 di agosto di 100 anni fa, Una sensualità sospesa di Emanuela Martini. Passiamo al supplemento del Corriere della Sera, la lettura che come sempre ha la copertina commissionata a un artista, questa volta è un Dario Denzo Andriolo, è una foto di una specie di libri, di pezzi di libri composti come in delle presse, tipo quelle in cui si mettono i fiori per conservarli, i fiori secchi, molto suggestiva, naturalmente anche adatta, insomma, non sempre così, non sempre le copertine sono legate al tema dei libri, questa volta sì. Ma molto interessante, le pagine 6 e 7, un lungo articolo che prende spunto dal libro di Randall Monroe che si chiama Cosa accadrebbe se? Risposte scientifiche a domande ipotetiche assurde, un libro appena pubblicato da Bompiani. È un ex costruttore di robot per la NASA, Randall Monroe, ma anche fumettista, blogger, e appunto in questo libro ha raccolto le risposte scientifiche a queste domande assurde. La lettura ha chiesto a 6 studiosi di immaginare altri scenari. Allora, divertentissimo, Edoardo Boncinelli gli si chiede: se gli insetti avessero le ossa? E la risposta: potrebbero sconfiggere gli uomini. Invece a Domenico Pignone: se non ci fossero i vegetali americani, non avremmo polenta né pumarola. E poi poi ce ne sono altre, ma appunto a Mauro Bonazzi si chiede se Socrate non avesse bevuto la cicuta, Nietzsche avrebbe fatto il filologo. E poi un altro bellissimo reportage di Luca Bergamin, che è andato in Norvegia a incontrare il poeta premio Nobel Thomas Tranströmer e ha visto come vive in mezzo a questo bosco. Il Nobel collezionava scarabei e farfalle nel suo cottage sull'isola di Runmaro, conservata e catalogata, la raccolta è il piccolo museo segreto della Casa Blu. Il supplemento della Repubblica invece la domenica, la copertina è con un bellissimo disegno di oddio, adesso mi sfugge il nome di questo fumettista importantissimo e mi verrà in mente, spero, prima della fine della... Eccolo qua, è Gipi, naturalmente, ecco, che cui ultimo libro è La mia vita disegnata male. Quindi l'illustrazione è sua, l'articolo però è di Zadie Smith, è in realtà un racconto della scrittrice Zadie Smith intitolato Fuga da New York, dove si immagina dove fossero Michael Jackson, Liz Taylor e Marlon Brando quando le Twin Towers crollavano. E forse questa è la domanda, così come per in una scorsa generazione di americani in particolare la domanda era dove eri tu quando c'è stato l'attentato a Kennedy, forse la domanda per la nostra, per la mia generazione ma anche di altri è dove eri tu appunto l'11 settembre del 2011. E poi un interessante approfondimento di Megan Tiffy, che è un articolo apparso sull'Atlantic Monthly, che la Repubblica ha tradotto, lo scrittore a social. Si parla spesso di quanto sia importante per uno scrittore promuovere i suoi libri o i suoi articoli o comunque il suo lavoro attraverso i social network, attraverso internet. Beh, si può essere anche a social forse, e quindi reading, festival, presentazioni da un lato, Facebook, internet e Twitter dall'altro, la comunità letteraria è onnipresente e invasiva, bisogna per forza farne parte, si chiede questa scrittrice. E il commento è di Christian Raimo, scrittore italiano: tra profilo pubblico e vita privata resta la letteratura. Tra l'altro questa è stata un po' l'estate, in estate ci sono tanti festival, si avvicina poi in settembre il Festival della Letteratura di Mantova, uno dei più famosi, insomma il tema è interessante capire quanto, che poi forse è la vecchia domanda che ci si pone, mi si nota di più se ci sono o non ci sono, ma è chiaro che il problema della sovraesposizione forse attraverso i social network o anche le contraddizioni che questo dà, o magari il rischio che non si riesca veramente a dare un'immagine giusta di sé, insomma un tema importante non solo naturalmente per gli scrittori. Per la serie Straparlando, le interviste di Antonio Gnoli, corredate sempre dai ritratti di Riccardo Mannelli, Elena Malagodi, che è una curatrice soprattutto di mostre, il titolo dell'intervista: dopo tanto fuggire e viaggiare, alla fine torno sempre nella mia Africa. Elena Malagodi appunto ci racconta questo grande amore che ha per l'Africa. Macro, il supplemento del Messaggero, la copertina è dedicata ai nuovi comici, che sono definiti dei cattivi nati. Sono un fenomeno tra le nuove generazioni, protagonisti della stand-up comedy che dilaga in televisione e sul web. Sono ragazzi poco più che ventenni, tutti molto scorretti, splatter, volutamente triviali, come i loro modelli americani. E poi un approfondimento su Andy Warhol, perché Andy Warhol, che naturalmente ha ispirato tantissimi film, tantissimi artisti poi di generazioni successive. Lo spunto è un libro che è appena uscito da Taschen su tutte le Polaroid che ha scattato Andy Warhol, e quindi il titolo dell'articolo di Valeria Arnaldi, Warhol e gli attimi fuggenti, con questo ritorno che tra l'altro c'è appunto di questo mezzo, le Polaroid. Ultima segnalazione che riesco a farvi, un'anticipazione, un racconto del tour che sta per partire di Bruce Springsteen, che ha 40 anni da Born to Run, è sicuramente ancora un mito. A novembre ci sarà un cofanetto di The River, uno dei suoi dischi più famosi, e poi soprattutto questo ennesimo tour per Bruce Springsteen, The Boss, forse il più famoso rocker americano. Era l'ultima segnalazione che riesco a farvi, grazie a Peter Bescapè in regia. Ancora buona domenica da Giulia Crivelli.